Lì sono stato per 20 anni direttore del Museo Storico del Risorgimento in Trento, oggi Fondazione Museo Storico del Trentino. Siamo in una fase di transizione per il museo che nasce dal Museo del Risorgimento. Il fatto che oggi nasca una Fondazione Museo Storico del Trentino è una cosa che ci riempie di orgoglio, perché insomma non è facile per delle istituzioni storiche, soprattutto museali, avere appunto prospettive di crescita come quelle a cui va incontro il nostro museo. All'interno di queste prospettive di crescita sta proprio la collana Vesti del Ricordo, che è la collana delle pubblicazioni del Museo Storico, di cui questa sera abbiamo appunto, prendiamo in esame l'opera L'eroe conteso di Massimo Tiezzi, che ha come sottotitolo La costruzione del mito di Cesare Battisti negli anni 1916-1935, e il numero precedente della collana Vesti del Ricordo, opera di Paola Antolini, Vivere per la patria, la biografia di Bicerizzi. Siamo in un clima battistiano, no? Noi sappiamo la figura di Cesare Battisti è una figura particolarmente complessa. Colgo anche l'occasione per salutare Mimma Battisti, che è qui con noi, che ci onora della sua presenza questa sera. La figura di Cesare Battisti è una figura particolarmente complessa. Massimo Tiezzi, proprio attraverso la sua opera, L'eroe conteso, mette in evidenza, ne parlerà appunto l'autore, la complessa rilettura storica che c'è in Italia nel periodo successivo alla tragica morte di Battisti il 12 luglio del 1916. E arriva fino al 1935, fino all'anno dell'inaugurazione del mausoleo a Battisti sul Dostrento, nella sua città natale. È particolarmente importante sottolineare come questi lavori della generazione a cui appartengono Paolo Antolini e Massimo Tiezzi è la prima generazione che non ha a che fare con la memoria diretta trasmessa dai testimoni del tempo, dagli eredi. E quindi siamo di fronte, per la prima volta, cosa che non era possibile per la nostra generazione stessa, una ricostruzione storica, un bilancio critico, come il passare del tempo permette dal punto di vista della ricostruzione storica. Ed è particolarmente soddisfazione per noi del museo vedere in questi giovani che si avvicinano alla ricerca storica questo interesse rinnovato per una figura come quella di Cesare Battisti, perché anche Paolo Antolini, nell'affrontare la biografia di questa donna, no, Bicerizzi, l'ultima donna del Risorgimento, così come venne appunto definita dopo essere stata quella che aveva preso il testimone da Ernesta Bittanti, la vedova di Cesare Battisti, cioè queste figure femminili, tutte dedicate, come nel caso di Bicerizzi, proprio alla conservazione della memoria con operazione storica, critica, ma nello stesso tempo capace di inserire la figura di Battisti nella tradizione storica del nostro paese, perché il problema è sempre quello di non perdere storia e memoria. Il problema oggi lo sappiamo, no? È quello che Battisti, uno pensa a Lucio Battisti, pensa appunto a Cantautore quando va bene, no? Se no nemmeno a quello, nel senso che neanche Lucio Battisti, quelli che hanno 17 anni adesso, Lucio Battisti non dice più nulla, no? Quindi figurarsi Cesare Battisti. Per cui è importantissimo che nelle nuove generazioni ci sia questo interesse, questo approfondimento storico su temi delicatissimi, perché la figura di Cesare Battisti, lo sapete voi che vivete a Bolzano, quali, diciamo così, problemi anche in termini di contemporaneità, di attualità pone, no? Non siamo lontanissimi dalle vicende che hanno visto il referendum su Piazza della Vittoria, per dire, no? Cioè, sono temi molto delicati ancora oggi, soprattutto in queste zone di confine dove una figura come quella di Cesare Battisti si presta anche a letture spesso molto ancora oggi contrastate, no? E questo storicamente va visto con un approfondimento che proprio Massimo Tiezzi fa nel suo L'eroe conteso. Naturalmente l'invito che facevo a Massimo, io essendo curatore dell'archivio Battisti, che lui vada avanti, non si fermi al 35, questo sia soltanto l'anticipo del lavoro che poi vedremo anche dopo, perché anche negli anni del secondo dopoguerra la figura di Battisti un po' c'è l'oblio per molti anni di Battisti, poi torna in auge, però sempre tirato un po' da una parte un po' dall'altra politicamente, e questo non fa mai bene alle figure storiche di grande rilievo, essere tirati troppo da una parte o dall'altra, perché Battisti rientra nel pantheon delle figure della nostra identità nazionale ed è giusto che non siano tirate né da una parte né dall'altra. Ecco, questi lavori critici ci aiutano appunto a entrare in questa prospettiva. Bicerizzi, di cui Paolo Antonini metterà in evidenza soprattutto il suo interesse per la Vicenza battistiana, che rimane uno dei punti forti della direttrice del Museo del Risorgimento di Trento, per 50 anni direttrice, donna indomita, che seppe tenere testa a dittature, a dittatori, a formule politiche che di volta in volta, diciamo così, cercavano di imporre in qualche modo una volontà, e lei sempre, diciamo, con grande rigore etico e morale, cosa di cui il nostro paese un po' manca ultimamente, ha saputo tenere alta la bandiera della ricerca libera dentro un museo, uno dei pochi, come ricorda appunto Mario Sneghi anche nell'introduzione, nella bella introduzione al libro di Paolo Antonini, appunto la tutela, appunto i valori di libertà, appunto vedono in Bicerizzi una figura che, richiamandosi a Battisti, mantiene una grande libertà di ricerca che ha permesso anche alla nostra generazione e quelle successive di continuare in un'opera di rilettura storica, critica come deve essere, ma sempre in piena libertà. Per cui ora do lei la parola, nell'ordine prima a Massimo Tiezzi e poi a Paolo Antonini. Grazie. Allora, intanto buonasera a tutti. E prima di iniziare il mio intervento vorrei fare alcuni ringraziamenti. Innanzitutto vorrei ringraziare la Biblioteca Italiana Claudio Augusta che ospita il nostro incontro. Come si sa poi, un libro è semplicemente l'esito finale, il frutto di un lungo lavoro che per quanto riguarda la storiografia è fatto di paziente analisi dei documenti, di riflessioni, di scoperte, ripensamenti, piste di ricerca che vengono continuamente abbandonate, poi riprese e poi ancora abbandonate. Ecco, in tutto questo lavoro, che spesso dura anni, un ricercatore accumula una serie di debiti di riconoscenza con tante persone e spesso le parole non bastano a colmare questi debiti. Vorrei perciò tentare di colmare almeno in parte questi debiti, tra virgolette, intellettuali, ringraziando innanzitutto il direttore del Museo Storico in Trento, Giuseppe Ferrandi, che ha benevolmente accolto la mia ricerca nella bella collana delle Vesti del Ricordo. E poi tutto il personale dello stesso Museo Storico in Trento, in particolare Rodolfo Tajani e Caterina Tomasi, senza il loro aiuto infatti la mia ricerca e la ricerca soprattutto documentaria sarebbe stata molto, molto più difficile. Infine un grazie alle persone con cui ho discusso della mia ricerca mentre ero ancora intento a tentare di dare un minimo filologico al mio lavoro, persone che da tempo frequentano e studiano gli argomenti di cui mi sono occupato con risultati sicuramente migliori dei miei. Sto parlando del professor Vincenzo Calì, sto parlando di Fabrizio Rasera e di Quinto Antonelli, che sono stati veramente di validissimo aiuto nel mio lavoro. Esaurito questo doveroso preambolo, vorrei iniziare il mio intervento con una confessione. Quando qualche anno fa dovevo presentare il mio progetto di ricerca per il dottorato, il professor Massimo Baioni mi prospettò la possibilità di analizzare il mito di Cesare Battisti. Le ragioni per iniziare una ricerca di questo tipo erano molte: la presenza di una mole documentaria consistente e ben conservata, l'assenza di una ricerca di questo tipo su un personaggio chiave della storia italiana a cavallo tra 8 e 900, la possibilità di continuare un filone di ricerca che già da qualche anno si era affermato in Italia, e non soltanto in Italia, e che si occupava sostanzialmente di ripercorrere attraverso momenti, eventi, personaggi, i diversi passaggi attraverso cui si è formata, si è cementata e si è divisa l'identità nazionale italiana. Nonostante tutta questa serie di buoni argomenti, devo dire che in quel momento mi trovai in una posizione di sostanziale imbarazzo. Confesso che per me Cesare Battisti, e in questo caso mi ricollego a quanto stava dicendo Vincenzo poco fa, era semplicemente il martire di Trento, l'irredento brevemente citato sui manuali di storia del liceo e dell'università. Sapevo ben poco di una figura che nel tempo invece mi sarebbe apparsa in tutta la sua complessità. Irredento sì, ma anche e forse soprattutto socialista. Un socialista atipico, tra l'altro, soprattutto per i canoni del socialismo italiano del tempo, con uno sguardo aperto alle grandi questioni europee, uno sguardo meno provinciale e più problematico, seppure non costruito su un impianto teorico strutturato. Un uomo permeato di patriottismo, un romantico, un positivista, un uomo d'azione, un garibaldino nella pratica di vita e nell'aspetto fisico, pronto a rivedere le proprie posizioni, a rompere con la parte maggioritaria del socialismo italiano nella difficile fase della neutralità. Un uomo che vede nella scelta interventista l'unica possibilità che oramai si offre alla sua regione per liberarsi dal dominio austriaco, ma che riesce anche a percepire le problematiche interne del suo territorio, intuisce cioè tutte quelle questioni aperte legate alla componente tedesca nel caso di una vittoria italiana nella guerra. Insomma, un uomo complesso, alcune volte contraddittorio, certamente non facile. E poi la morte, una morte clamorosa che lo rende martire e vittima da una parte, quella italiana naturalmente, e simbolo del tradimento, icona dell'infedeltà all'impero asburgico dall'altra. E quale morte, ha scritto Mario Snenghi, difficilissima da interpretare da tutti in spirito di verità, le sinistre e le destre, quella sua vita e quella sua morte socialista e irredentista, sovversivo e patriota, molto meglio gettare su tutto l'alone del mito, anzitutto rimuovendo quella circostanza agra e scomoda per tutti, che Battisti non era un nazionalista, ma un militante della sinistra, il deputato socialista e anticlericale di Trento. Ecco, il mio lavoro inizia proprio da qui, nasce dalla fine di una vita, dalla morte di Cesare Battisti. È da questo momento in poi che inizia, grazie all'opera congiunta della stampa italiana, delle istituzioni, delle forze politiche, delle gerarchie militari, l'azione di sacralizzazione di Cesare Battisti, la costruzione del suo mito. Ma qual è il mito che si sta edificando con grande sforzo collettivo? Chi è l'eroe che si celebra nei discorsi commemorativi sulle piazze italiane, negli articoli sui giornali? L'eroe a cui si dedicano strade, vie, edifici pubblici, scuole, teatri, ospedali? È sostanzialmente il Battisti soldato, l'eroe solitario che nella pubblicistica e nella stampa italiana, intenti a supportare lo sforzo bellico, sfida il nemico, compie azioni leggendarie e quasi presago del proprio destino si immola sull'altare della patria. Come si trasforma poi questo mito, dopo la fine della guerra, con l'esaurirsi dello spirito della Nation Armée che in parte aveva caratterizzato il periodo 1915-1918? In che modo l'eroe nazionalmente celebrato, assurto nell'Olimpo dei grandi eroi nazionali, si confronta con l'incandescente clima politico italiano del dopoguerra? E ancora, i socialisti ne rivendicano perlomeno in parte l'eredità politica oppure quello strappo, quella scelta di schierarsi per l'intervento è una scelta che ha rotto completamente i ponti tra Battisti, la sua memoria e i socialisti italiani? Ma si può lasciare campo aperto ai nazionalisti, ai conservatori che ne rivendicano l'esclusività nel rivendicarne l'eredità, ne esaltano l'esempio di socialista patriottico, di uomo che per il sommo bene della patria aveva messo da parte l'internazionalismo. Infine c'è la questione fascista, c'è il fascismo che alla ricerca di una legittimazione rileggia proprio uso e consumo alla storia patria, reinterpreta i principali eventi nazionali sotto una lente deformante, riducendoli a transitori passaggi che conducono, che devono condurre all'affermazione finale e definitiva del mussolinismo, consacrazione suprema della storia italiana. Pare quasi superfluo dire che in quest'opera di appropriazione uno sguardo speciale viene rivolto alla Grande Guerra, fase di passaggio decisiva nella più recente storia italiana, ragione ultima e momento scatenante dei radicali cambiamenti che travolgono il paese. Di qui l'attenzione particolare rivolta dal fascismo all'eroe Battisti, al mito dell'eroe trentino. Di qui il tentativo da parte del regime di appropriarsi dell'icona battistiana, di trasformarla a proprio beneficio, di spogliare Battisti della sua più profonda essenza di socialista e interventista democratico, fino a collocarlo nel pantheon eroico dei precursori del regime fascista. Però ho parlato di tentativo, non di operazione perfettamente riuscita. Il fascismo in effetti si scontra con la resistenza della memoria di Cesare Battisti ad essere ridotta e utilizzata ai fini della politica mussoliniana. C'è una resistenza sotterranea, opposta a questa semplificazione, in cui primeggia la vedova dell'eroe, quell'Ernesta Bittanti gelosa custode della memoria del marito, come molti l'hanno definita, intenta a preservare la memoria democratica di Battisti. Certo, si potrà dire che si trattò pur sempre di un'operazione liminare, di un'operazione di confine, un'operazione messa a punto da uomini che ben poco potevano contro lo strapotere politico e propagandistico del fascismo, ma non si potrà certo negare che questo ristretto nucleo di resistenti operi e agisca svolgendo un ruolo che certe volte la critica, temendo di sopravvalutarne l'impatto, ha finito per sottovalutarlo. E poi ci sono le incertezze del regime, o forse il suo disinteresse. L'attenzione è progressivamente sempre più forte nel costruire una mitologia incentrata sull'esaltazione del sacrificio collettivo, un'epica del passato che, per quanto riguarda la Grande Guerra, pensava di trarre maggior profitto dal conteggio dei milioni di morti nelle trincee piuttosto che dal martirio del singolo eroe, tanto più se questi si chiamava Cesare Battisti, con tutto il portato ideologico che comunque questa figura trascinava con sé. E c'è la natura ideologica di fondo che contraddistingue il fascismo, un'ideologia confusa e contraddittoria, come ha sottolineato Pier Giorgio Zunino, uno degli storici che l'ha analizzata con maggiore lucidità, ma capace di trarre da questa sua natura poliforme, adattabile, probabilmente la sua maggiore forza. Un'ideologia che comunque, al di là di questo, si caratterizza per l'insistenza del mito della vittoria, della forza, della capacità di imporsi di fronte al nemico, interno o esterno che sia. Una propaganda che proprio per queste ragioni, e questa è una mia tesi, vede nell'icona battistiana una figura perdente. Prendiamo un caso locale, molto significativo, un caso che è diventato non solo simbolicamente ragione di scontro e di conflitto, il monumento alla vittoria di Bolzano. Quel monumento è inizialmente pensato dal regime come monumento a Battisti e solo successivamente riconvertito, risemantizzato. Il ricorso all'eroe Battisti non è sufficiente per il regime. Nella terra strappata al nemico occorre celebrare la vittoria, occorre imporre in faccia all'avversario un simbolo solenne di forza che funga da monito perenne. Certo, Battisti rimane, ma è nascosto, è posto all'interno dell'arco trionfale, quasi celato alla vista collettiva. Sopravvive però come simbolo per una parte della popolazione, forse la parte maggioritaria, finisce per diventare, suo malgrado, icona negativa dell'italianizzazione forzata della regione sud tirolese. Ecco, in questo forse potremmo individuare il risultato di maggiore strumentalizzazione operato dal regime fascista nei confronti della figura battistiana. Nell'essere riusciti ad imporlo, a trasformarlo in ambito regionale, nella figura simbolo della conquista italiana. Il mio lavoro si apre, come detto, con la morte di Cesare Battisti e si chiude con una data simbolo, il 26 maggio 1935, giorno dell'inaugurazione del monumento sul Dos Trento, quel monumento che è dedicato, solennemente dedicato alla memoria battistiana. In questa mia ricerca ho tentato, e ne ho in parte accennato nel discorso che ho fin qui fatto, di ricostruire quelle che sono state le caratteristiche e le principali linee evolutive del mito battistiano, cercando di gettare qualche spiraglio di luce su argomenti finora non trattati con sistematicità dalla storiografia. Inevitabilmente sono rimasti fuori alcuni argomenti, alcune piste interpretative che valeva e probabilmente varrà la pena riprendere in futuro. Penso per esempio ad uno studio più sistematico sull'oratoria pubblica dei personaggi chiamati di volta in volta ad intervenire nelle celebrazioni battistiane, nelle tante innumerevoli piazze italiane in occasione magari, ma non soltanto, della dedica di una via o di un monumento al martire. Mi sembra che uno studio sistematico di questa oratoria, sulla scorta di quanto è stato fatto ultimamente a livello generale per quanto riguarda la celebrazione della Grande Guerra, e sto pensando per esempio al lavoro di Andrea Baravelli, la vittoria smarrita, legittimità e rappresentazioni della Grande Guerra nella crisi del sistema liberale, possa aprire delle interessanti piste di indagine. Il linguaggio da sempre rappresenta un indicatore essenziale non soltanto di un progetto volontario di costruzione di un messaggio politico, in questo caso riconducibile al processo di costruzione del mito battistiano, ma anche il momento in cui si fondono, più o meno consapevolmente, vecchi e nuovi canoni. In questo caso potrebbe essere molto interessante verificare quanto della vecchia oratoria risorgimentale dell'eroica epica ottocentesca riemerga nell'edificazione del mito di Battisti e quanti elementi di novità invece emergano in seguito alle trasformazioni sociali, politiche operate dalla guerra e dalla lenta trasformazione della società italiana in società di massa. E poi la presenza, più o meno forte, di codici linguistici diversi, e penso in particolare a quello religioso, storico termine di riferimento per i rimandi solenni cui allude in questo tipo di costruzioni retoriche. Altro elemento da analizzare con maggiore sistematicità, anche qui prendendo a modello quanto è stato fatto finora per l'epoca risorgimentale, è quello che riguarda il linguaggio monumentale. Io purtroppo non ho avuto tempo di fare una analisi sistematica, nelle mie intenzioni c'era anche l'idea di costruire una sorta di mappatura nazionale del mito battistiano. In realtà mi sono scontrato anche con una quantità sterminata di monumenti che sono dedicati a Battisti in tutta Italia, perciò diventava veramente difficile, ma credo che una mappatura proprio a livello geografico possa dirci molto anche sulla pervasività del mito, sulla sua capacità di penetrare all'interno di realtà locali di un certo tipo. La rappresentazione figurativa dell'eroe in tutta la monumentalistica a lui dedicata, intendendo il termine monumentalistico in senso ampio, sto pensando alle statue, sto pensando ai monumenti, ai busti, ma anche a tutte le immagini, grandi o piccole che siano, dalle cartoline ai dipinti, fino alle targhe commemorative, in questo caso si aprirebbe anche un nuovo campo legato proprio all'epigrafia battistiana. Ecco, questo campo potrebbe rappresentare un altro motivo di studio per analizzare continuità e trasformazioni nella rappresentazione pubblica dell'epica nazionale, perché un elemento su cui insistere profondamente, io credo, è proprio questo del rapporto tra l'epica storicamente formatosi in età risorgimentale, quell'epica che si basava sul culto dei grandi eroi del risorgimento italiano, alle grandi figure di Mazzini, di Garibaldi, di Vittorio Emanuele, di Cavour, un'epica che si scontra anche con una realtà difficile, che non riesce a penetrare completamente nella coscienza collettiva del paese. Beh, quest'epica subisce il trauma profondo, decisivo della Grande Guerra, ma nella propaganda bellica, nella propaganda che si legge sui giornali in epoca bellica, è ancora ben visibile, ben forte il legame con quelli che erano i vecchi canoni rappresentativi risorgimentali. Ecco, io credo che anche qui vedere in che modo la vecchia epica risorgimentale, il vecchio linguaggio dell'Italia risorgimentale si modifichi, si trasformi, risenta degli effetti drammatici della Grande Guerra, sia un elemento su cui valga la pena riflettere ulteriormente. E poi l'uso del corpo, un'analisi sistematica e ragionata sulla funzione e sull'uso propagandistico del sacrificio battistiano, eternato nelle fotografie dell'uccisione che rappresentano uno straordinario documento monumento novecentesco. Qui si apre, secondo me, la parte più interessante. Infatti un'analisi del martirio battistiano, tenendo presenti studi a cavallo tra la storia e l'antropologia, penso per esempio al bellissimo lavoro di Giovanni De Luna, Il corpo del nemico ucciso, possono offrire linee interpretative nuove e originali. Secondo me molto proficue, in grado di incrociare il lungo e il breve periodo, mettendo in maggiore luce l'exemplum del martirio battistiano come uno dei più eclatanti sintomi dell'imbarbarimento bellico, della violenza indiscriminata che caratterizzò il primo conflitto mondiale. E poi ancora l'uso del corpo successivo alla morte, la doppia sepoltura del cadavere che pare alludere a certe ritualità indagate da Robert Terza, e il lutto, altro elemento centrale per la storia italiana immediatamente successiva alla guerra. In questo caso credo che sarebbe necessario riflettere più di quanto io non abbia fatto sul rapporto dialettico tra lutto collettivo e lutto individuale. Ultimamente questo è un settore della storiografia e della ricerca storica su cui alcuni ricercatori insistono molto. Penso per esempio al lavoro di Oliver Jans sulla memorialistica borghese, sulle epigrafi che gran parte delle classi borghesi italiane hanno dedicato ai propri cari, figli, genitori, mariti caduti in guerra. Ecco, questo accostare il mito battistiano, che è un mito individuale, e il lutto battistiano, che è un lutto individuale, che però paradossalmente poi si fa lutto collettivo, perché Battisti diventa un'icona nazionale, un'icona partecipata collettivamente, potrebbe essere un altro elemento molto interessante da approfondire. Infine una problematica aperta, che temo resterà tale perché su questo aspetto la storiografia si interroga da molto tempo. Sto parlando del problema della ricezione del mito, della questione che riguarda l'effettiva efficacia, l'effettiva riuscita dell'opera di consacrazione nazionale del mito battistiano. Nel mio libro ho cercato di rispondere almeno in parte a questa problematica, avanzando l'ipotesi che, al di là dell'impossibilità di misurare con esattezza la riuscita o meno del progetto di consacrazione nazionale di Battisti, esistono strumenti di trasmissione paralleli dei messaggi propagandistici che spesso la storiografia non considera adeguatamente. Penso alla monumentalistica pubblica, che aveva un impatto sulle coscienze che oggi noi, abituati al bombardamento mediatico, possiamo cogliere solo in parte. Penso alla trasmissione orale, penso alla lettura dei giornali, dei periodici, fatta magari dall'unico membro della famiglia alfabetizzato agli altri componenti della stessa. Penso alle stampe, penso alle storie raccontate per immagini rivolte ai ragazzi, cioè a un pubblico di minori, ma non soltanto a loro. Insomma, una serie di strumenti di trasmissione del messaggio che hanno svolto un ruolo suppletivo rispetto alla semplice parola scritta in un'epoca di scarsa alfabetizzazione e che hanno consentito al mito di Cesare Battisti di andare oltre, questo almeno credo, alla ristretta cerchia sociale cui molti paiono volerlo racchiudere. Vi ringrazio. Grazie Massimo Tiezzi, le piste di ricerca sono molto evidenti, le nuove piste di ricerca che emergono dalla ricerca. Sull'epigrafia in particolare, il suggerimento che Piero Calamandrei aveva dato, no? Che era quello di ritornare all'epigrafia come la intendevano i classici, no? Gli antichi, è un suggerimento che poi Calamandrei, proprio nel caso di Battisti, usò nelle sue forme più alte, no? Il richiamo all'epigrafia di Calamandrei, è una pista di ricerca che appunto giustamente Tiezzi dice non è stata sufficientemente indagata, e appunto le ricerche servono proprio a questo, no? A cercare di stimolare ulteriori approfondimenti. Grazie, la parola a Paola Antolini. Ecco, anch'io ringrazio di essere invitata qua. Dunque, la mia ricerca nasce all'interno della tesi di laurea che ormai ho concluso 3 anni fa, e beh, penso che qua volevo tirare un po' sul discorso della memoria battistiana. Vi dico soltanto che a Vicerizzi, un attimo, per chi non l'ha mai sentita, Vicerizzi, diciamo, diventa nota in terra trentina perché è stata condannata a morte dal Tribunale Militare di Guerra di Trento nel 1916. E è stata condannata praticamente lo stesso anno del Battisti. Infatti i due, poi non è stata naturalmente portata a termine la condanna perché le donne non sono mai state eseguite, diciamo, nessuna è, almeno a mia conoscenza nessuna è stata poi effettivamente uccisa. E diciamo che lei si sente, forse dopo ex post, si sente legata con un doppio filo al destino anche del martire, e questo legame alla figura battistiana poi viene rafforzato dall'amicizia con la vedova Battisti, l'Ernesta, che diventa un po' il suo riferimento morale, ideale, non solo, anche affettivo, perché comunque insomma c'è un rapporto che non è soltanto, diciamo, possiamo dire di condivisione di ideali o di valori, ma è proprio anche un rapporto che va oltre, diventa di amicizia e di affetto. E quindi Vicerizzi diventa un po', diventa da un lato un elemento per entrare da un'altra parte nella famiglia Battisti e conoscere e vedere la figura di Battisti da un'altra angolazione, nei colloqui con Ernesta. Per un altro verso, Vicerizzi diventa importante nel primo dopoguerra perché riesce, grazie anche in virtù di questo suo cursus honorum, cioè di avere sulle spalle questa condanna pesante per irredentismo, entra grazie alla Legione Trentina, quindi all'associazione dei volontari che reduci dalla guerra di redenzione tornano a Trento e decidono insomma, e diventano classe dirigente, entra nel progetto del Museo del Risorgimento di Trento, che viene costruito all'interno del Castello del Buon Consiglio. Quindi lei è, da un lato, dicevo con Massimo, un esempio di ricezione un po' particolare, diciamo, non è proprio, diciamo, una ricezione di una certa elite che già è di per sé portata a recepire il mito e a farsene interprete, dall'altro lei stessa è compartecipe della costruzione della memoria, infatti è un personaggio importante per tanti versi. In più per me era interessante perché è una donna, e come diceva anche prima il professor Calì, insomma una donna che dirige, fra virgolette, perché all'inizio non dirigeva, però comunque che di fatto è lì a contatto con questi materiali e li organizza insieme ai legionari, ecco, insomma. Era interessante per più versi. Io ho pensato, sempre in riferimento a Battisti, i riferimenti ci sono anche qui, ma naturalmente il mio filo era la vita di Bicerizzi, quindi di partire con dicendovi proprio che anche per me c'è stato in qualche modo, mi sono scontrata anch'io nella corrispondenza di Bicerizzi e nel parallelo di quella dell'Ernesta Bittanti, che era la sua corrispondente, una delle sue corrispondenti principali, nella possibilità di verificare, di mettere in luce una rappresentazione abbastanza eroica, diciamo. Anche Bicerizzi, che pure non ha portato a termine proprio il suo sacrificio, fra virgolette, ma è stata per 3 anni in carcere, comunque durante la guerra, e quindi insomma ha scontato questo suo ideale patriottico, e diciamo diventa un'icona viva. Lei, ce la vediamo lì nel castello, poi insomma in questo luogo della memoria dove è stato giustiziato Battisti, questo luogo dove sono passati tanti, anche luogo della memoria ancora da prima della guerra, perché il 48 Trentino, 1848, già aveva visto i suoi martiri, come li chiamava la Bicerizzi, i proto-martiri, quelli che avevano annunciato in questa lettura continuativa. Lei è lì, raccoglie i materiali e al tempo stesso mi veniva in mente guida i visitatori, perché poi spesso era lei che guidava i visitatori. E a proposito del discorso della diffusione orizzontale interessantissimo di cui tu parli, cioè, mi veniva in mente anche il pellegrinaggio che tutti fanno, anche a me era venuto in mente, bisognerebbe censire, ci sono anche le foto, chi non va a Trento e non visita la fossa, perché quello è il primo luogo. Poi quando nasce il monumento, allora diventa anche il monumento sul Dos Trento, diventa la seconda tappa, no? Però ecco, e lei si immedesima in questo ruolo di comunque guida, possiamo dire, ma anche direttrice, dai, chiamiamola anche a pieno titolo direttrice, grazie a un'investitura particolare, vi dicevo, dell'Ernesta Battisti, che a me piaceva molto questa, ho trovato delle cartoline nell'archivio Battisti, una cartolina con l'immagine di Battisti, della Coforte Bonazza, che è famosissima, la mette anche Massimo, ce n'è insomma una, non so adesso perché ce n'erano tante che giravano, comunque c'è nel libro di Massimo, e dietro c'è una dedica autografa di Ernesta a Bice, per dirvi di com'era importante per Bice sentirsi, diciamo, la Battisti al femminile, ma un po' esagerato però. 27 gennaio 1916, data della condanna a morte di Bicerizzi. 27 gennaio 1931, nello studio di Battisti, sempre italiana e combattente. Lo studio di Battisti diventa un luogo, anche quello, un luogo dove in qualche modo si torna a contatto con questa realtà quasi, perché poi, ecco, io posso parlarvi solo di un'esperienza settoriale, che è poi quella della Bice, c'è una specie di rapporto mistico, sto un po' esagerando, però neanche più di tanto, con i luoghi del supplizio, con il luogo appunto di Battisti, dove lui elaborava il suo pensiero da una parte, no? E con la figura dell'intermediaria che è l'Ernesta, no? Questo mi sembrava molto interessante, questo fatto di vedersi un po' legata, o comunque di aver vissuto più o meno l'esperienza di lui. E infatti poi dopo lo riprendo. Ecco, Bice per me ha avuto questa specificità, adesso passo un attimo su di lei. Lei è legittimata a raccontare perché prima di tutto ha vissuto in presa diretta queste cose, quindi io l'ho chiamata un po' eroina e vestale, è un po' questo, no? È una vestale perché assume su di sé questa missione quasi religiosa, no? Siamo proprio nel pieno di questa costruzione, ma al tempo stesso lei racconta di sé, ecco, era quella la specificità, diciamo, femminile più particolare, che di solito le donne, anche l'Ernesta, che pure dicevamo anche oggi con Vincenzo, se non ci fosse stata lei a raccogliere, ecco, insomma, all'inizio è stata proprio, sono le donne che raccolgono le memorie, no, di questi uomini illustri. E a Bice, qualcuno mi aveva domandato che memoria conserva, prima di tutto la memoria di sé e poi la memoria del Trentino, la memoria di Battisti in primis, e questo è, diciamo, un punto importante. Mi piaceva leggervi una cosa, appunto per dare un'idea dello spirito, no? Adesso vi vi faccio un po' saltare con la mente. Nel 1940 siamo in piena seconda guerra mondiale, le due, perché è sempre il duo, io mi trovo di fronte a questo duo spesso, a questi dialoghi, Bice e Ernesta, discutono e sono molto preoccupati perché Bice e Ernesta già dal 38, Ernesta forse da prima, la Bice Rizzi era un po' attratta dalle campane del nazionalismo di più, ecco, però aveva comunque questo confronto costante che la teneva, questo confronto democratico con Ernesta. Però insomma lei, comunque nel 38 già cominciano a mal digerire le alleanze, gli avvicinamenti, questo avvicinamento forte alla Germania hitleriana, perché anche lì c'è tutto questo retroterra, come diceva anche Massimo, sia della memoria risorgimentale, ma poi anche del profondo imprinting, possiamo dire, che la Grande Guerra dà, no? Ed è fortemente, nel caso dell'interventismo democratico, anti-imperialista, quindi anti-germanico, cioè il nemico è il tedesco, poi lei, la Bice Rizzi, non distingueva assolutamente. Austriaco e tedesco è la stessa cosa, cioè, e aveva una specie di reazione proprio quasi istintiva e potremmo dire sì, emotiva, ecco, di fronte al confronto con questa cultura, con questa. Ecco, nel 40, quando c'è la effettivamente il Mussolini dice, ecco, entriamo in guerra, insomma, il 10 giugno del 40, questo è un diario che è stato pubblicato già da tempo, e forse, vabbè, insomma, nelle corrispondenze la Bice scrive a Ernesta e dice: cara signora, qua parlo del monumento che conoscete, immagino, che si vede sul Das Trento. L'ara della verruca è immersa nel buio, ma la luce di lui è più viva che mai nel cuore di quanti oggi soffrono e piangono. Quindi Battisti, in questo caso, ecco, vi mostro cosa poteva rappresentare per una nicchia, forse nemmeno. In questo caso un elemento di dissenso, cioè dice Battisti non avrebbe accettato, per la Bice Rizzi naturalmente, questa alleanza. Battisti non sarebbe entrato in guerra così, ma questo lo diceva già dal 39, perché ci sono. Cioè, quindi, diciamo, l'immagine di Battisti viene attualizzata anche in un certo senso, probabilmente possiamo dire a ragione, era interpretata così, altri, vi dico, la interpretavano, altri compagni, non proprio di lotta, ma comunque irredentisti, altri irredentisti, interpretano invece che Battisti avrebbe addirittura forse auspicato una cosa del genere. E le due donne lottano per, ecco, allora anche lì rientrano la questione della memoria, lottano per affermare invece che no, però appunto è una lotta impari, nel senso che comunque, diciamo, il paese aveva preso quella strada e loro potevano ben riaffermare nelle corrispondenze che Battisti non avrebbe mai accettato questo, alleanza con la Germania nazista per giunta. E quindi dice lei, quanti oggi soffrono e piangono, l'idea consacrata da così alta testimonianza, da così sublime martirio, non può morire. Ma lei la vede un po' scemare in quel momento. Domani salirò per attingervi la forza di vivere. L'abbraccio con cuore filiale e devoto. Perché salirò? Perché loro andavano, ecco, così mi ricollego, andavano nei luoghi. La Bice Rizzi addirittura andava anche nelle celle, perché erano lì, al castello. Anche questo mi ha sempre molto colpito, no? Questa cosa del bisogno di andare nei posti segnati dal passaggio di, un po' un rapporto un po' particolare, ecco. E andavano al Das Trento in gruppo, anche questa è una cosa particolare, perché l'Ernesta, e qua penso sia stata proprio lei, negli anni 20 aveva creato una sorta di associazione femminile, l'aveva aperta a tutte le donne trentine, dicendo chi vuole sottoscrivere, e la chiamata, vabbè, di lampade della verità votive, a Battisti ne avevano pensate tante, anche i combattenti, quindi insomma era abbastanza d'uso, però questa qui è l'associazione delle accenditrici della lampada votiva Battisti, e le accenditrici sono donne, di solito quelle che aderiscono non sono tante, in verità non abbiamo ancora chiarito bene quante siano, ma sono della cerchia ristretta appunto di quell'ambiente lì, dei volontari, quindi possono essere le madri dei volontari, le vedove, appunto le figlie, poi via via, insomma. Ecco, la Bice Rizzi naturalmente l'aiuta in tutto ciò, la sostiene, e cosa vediamo lì? Non vediamo nulla di particolare, vediamo un altro luogo spontaneo in cui questa memoria viene coltivata in, possiamo dire, anche in antitesi, in qualche modo ritagliandosi uno spazio autonomo rispetto alla memoria pubblica, quella che all'uso pubblico che se ne faceva in quel periodo, quindi si parte nel 25, ma poi queste vanno avanti perché il 38, 39, tutti gli anni poi mandano nelle date, gli anniversari erano imprescindibili, in quelle date là, insomma, loro portano la corona di fiori, probabilmente, io dico probabilmente, diranno due parole per ricordare, proprio per non dimenticare, ecco questo, e per ricordare anche il senso di, perché poi, come abbiamo visto, le memorie sono molto diverse, ecco. E questo mi pareva molto interessante. Per quanto riguarda il lavoro, invece, questo, diciamo, attiene un po' alle commemorazioni, alle celebrazioni, allo spazio pubblico. Per quanto riguarda il lavoro del museo, io l'ho approfondito, diciamo, solo tangenzialmente al momento, però comunque Bici e Ernesta lavorano intensamente soprattutto Ernesta, sull'opera del marito, e Ernesta dà alla luce già negli anni 20, no? Una bibliografia ragionata, poi nel 38-39 praticamente racconta Cesare Battisti attraverso l'Italia, quindi la sua campagna interventista, anche in maniera abbastanza vivace, no? E lì, dall'archivio Bicerizzi, esce anche questo lavorio, diciamo, dietro le quinte. Quindi io posso dirvi, ad esempio, che l'Ernesta lamenta la fatica di anche pubblicare, e poi so che aveva trovato anche parecchie critiche alla pubblicazione. C'era stato qualche irredentista, non mi ricordo se era l'Archero, che insomma, comunque qualcuno dell'ambiente trentino, che era stato un po', era rimasto un po' deluso. E viceversa, sempre da queste conversazioni, questi scambi epistolari, emergono alcuni aspetti che si possono ricondurre alla relazione di prima. Ad esempio, quando si parlava della strumentalizzazione, ecco, Ernesta maltollera questa cosa, allora, se, diciamo, delle strumentalizzazioni, ad esempio del fatto di dire precursore anzi Mussolini allievo di Battisti, no? Questa autolegittimazione. E allora ogni tanto, ecco, sì, si sentono queste turbulenze, nel senso che l'Ernesta, magari, ecco, ve lo leggo perché, insomma, diciamo, lei è molto espressiva. Nel 37 c'è Aldo Valori, che è un giornalista di primo piano, delle testate, del Corriere della Sera, eccetera, eccetera, che scrive una cosa, insomma, del tipo, appunto, il regime ha come tra i suoi precursori Battisti, non era una novità. Ho letto purtroppo l'articolo. Quando la menzogna e l'offesa toccano grandi figure, quindi, insomma, c'era la volontà di tenerli lontani, poi, che ci sono sacre, ed una grandissima storia che abbiamo dato il sangue del nostro cuore, urge al nostro animo il desiderio, la necessità della protesta. Chi la coglie oggi? L'età di Lecca Piattini, quanta amarezza. Insomma, lei cerca disperatamente, è difficile, diciamo, e la Bicerizzi, diciamo, in qualche modo la supporta, però il rendiconto alla fine, ma sì, forse è interessante dire che non tutto è stato assimilato, però per altre ragioni, forse, non per queste forme minimali, io credo. Io credo che ci sia una forte differenza tra il mito regionalmente percepito e il mito nazionale di Battisti. Cioè, qui la difficoltà enorme sta nel fatto che Battisti, nella regione trentina e nella regione sudtirolese, diventa strumentale al progetto di italianizzazione da parte del fascismo. Questa è la questione di fondo. Non è un personaggio centrale nella mitologia nazionale fascista, perché in fin dei conti questa era una regione in qualche modo marginale, provinciale. Ci rientra poi il gioco delle alleanze internazionali, ci rientra poi il riavvicinamento all'Austria e poi l'avvicinamento definitivo alla Germania hitleriana. Però io ho notato fortemente questo aspetto, cioè una diversità profonda tra la percezione nazionale del mito battistiano e la percezione regionale. A livello nazionale Battisti rientra un po' nell'alveo dei grandi eroi nazionali, sulla scorta dei grandi eroi risorgimentali. C'è una specie di fil rouge che lega, l'ho accennato durante la mia relazione, Mazzini, Garibaldi, fino agli eroi della Grande Guerra, fino a Cesare Battisti, cosa che invece non è vera per il trans. Cioè, diciamo è vera per un, almeno non so se interpreto, per una minoranza, cioè un gruppo che però è abbastanza incompreso tra di voi, almeno questa è l'impressione, e diventa sempre più sparuto man mano che si va avanti, perché poi se andiamo avanti negli anni secondo dopoguerra, veramente la cosa diventa sempre più faticosa per loro, no? E io ho cercato, Maria, un po' più, di capire anche come fanno, c'è cioè un tentativo di riattivare questa memoria, non solo quella battistiana che magari era ancora viva, ma anche quella che loro vedono in continuità, no? Tu dicevi appunto che è interessante vedere le continuità delle vetture, secondo me la Biceriti cercava, dice, qua non voglio tirare in mezzo anche la Ernesta Battisti, ma di cogliere soprattutto la continuità, cioè di dire risorgimento, grande guerra come compimento, ma lì complice la propaganda, insomma, di guerra, una quarta guerra d'indipendenza, e poi addirittura, perché con notevoli capriole comunque lì, resistenza vista nella chiave patriottica, quindi come liberazione, vabbè. Sì, io su questo aspetto della, sì, della continuità ci andrei cauto, nel senso che io ho visto anche recentemente, discutendo del mito garibaldino, nella percezione collettiva italiana ci sono già delle profonde rotture a inizio Novecento. Io penso alle celebrazioni garibaldine del 1907, per esempio. Io ho visto l'ambito toscano, che è quello che mi riguarda più direttamente, già con l'affermazione dei partiti di massa, già con la necessità da parte dei socialisti di staccarsi, di marcare le differenze rispetto alle istituzioni, c'è questa necessità di rompere l'immagine iconografica ecumenica che si afferma nel tardo Ottocento, cioè questa immagine del risorgimento fatto da tutti, compiuto da tutti, da Garibaldi, da Mazzini, da Vittorio Emanuele, tutti insieme appassionatamente che portano il paese all'unità. Ecco, già in quel momento secondo me, non soltanto secondo me, c'è un tentativo di affermazione. In molti la vedono come un'affermazione in chiave difensiva, cioè c'è il movimento socialista, ci sono i radicali che tendono ad affermare le proprie posizioni in chiave difensiva e si appellano al personaggio che gli era più vicino, in quel caso Garibaldi, l'eroe popolare, sì, sì, l'eroe dalla camicia rossa, l'eroe dei due mondi, però un eroe vicino al popolo. Comunque, quindi, dal punto di vista delle ricerche di entrambi, no? Cioè, viene fuori, soprattutto è importante questa sottolineatura che faceva prima Paola dal punto di vista, sì, di queste minoranze sempre più esigue, no? Cioè queste accenditrici della lampada, cioè noi sappiamo oggi, dopo gli anni 70, cos'è il movimento di emancipazione femminile, cosa ha voluto significare una, diciamo così, ripresa della presenza pubblica femminile, cioè sono cose recentissime per noi. Pensiamo cosa poteva essere una religione civile come quella che tengono in piedi queste, di fronte giustamente a un contesto regionale assolutamente avulso, no? E in un contesto nazionale che tendenzialmente strumentalizza la figura di Battisti, è una religione civile che rimane di fatto interpretata da minoranze sparute ed esigue, che sono le minoranze sparute ed esigue che nell'autobiografia della nazione ritroviamo, insomma, quando Amelia Rosselli, la madre di Carlo Enello, porta i suoi figli alla visita al Castello del Buonconsiglio, lo racconta in Fratelli Minori, in questa opera uscita nel 1923, come tutti gli italiani vanno in pellegrinaggio, no? Ma lei cosa dice ai figli? No? Voi respirate più Italia in queste mura che in qualsiasi altro luogo d'Italia, cioè, ma è una religione civile che porta, diciamo così, avanti una minoranza sparuta, che sono però quelle minoranze che tengono accesa quella fiamma della democrazia, il Calamandrei, appunto i Rosselli, che rimangono assolutamente minoritarie anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi l'oblio in cui cade Battisti, o anche per le contrapposizioni che nascono con i partiti di massa, no? Sempre quel discorso di tentare di tirarlo ognuno dalla propria parte, lascia sempre più isolate, sempre più in solitudine questi, diciamo così, testimoni di una religione civile che in Italia è la democrazia, cioè che non trova, insomma, noi andiamo a vedere le biografie dei personaggi, ora Paolo Antolini sta in una ricerca nuova iniziando a ricostruire la storia del Museo del Risorgimento, è una storia di minoranze assolute che portano questa religione civile, no? Attraverso generazione e generazione, qui si parla di passaggio di generazioni, tenendo vivi questi valori eticalmente e moralmente fondanti che non sono patrimonio della, delle maggioranze. Questo è un dato, almeno non lo sono ancora, no? Poi insomma il futuro. Appunto, direi che le ricerche dei nostri giovani ricercatori ci aiutano a pensare alla prospettiva di questo tipo, no? Nell'andare a fondo, come loro hanno entrambi fatto con queste ottime ricerche. Ora, se c'è qualcuno nel pubblico che vuole intervenire, se vuole fare qualche domanda, prego. Ma sono le mie impressioni. Volevo rispondere, nemo profeta in domo sua, no? È logico che Battisti, io sono trentino di nascita, sono nato a Bezzecca, proprio dove Garibaldi disse ho torto collo, credo, obbedisco. Quindi sono nato 9 anni dopo la morte di Battisti, io, quindi ho sentito parlare da mio nonno, che aveva qualche anno, non di più, 5 anni più di Battisti, e non è che... E qui nascono, sentivo parlare anche dei rapporti di Battisti con Mussolini, che era rappresentante in Trento dei sindacati. Ha avuto anche quell'avventura che è nato un figlio di Mussolini di Cadine. Quindi il rapporto tra Battisti, Cesare Battisti e Mussolini non era tanto idiliaco, tanto che credo che quasi l'ha preso a calci quando se ne vada. A calci no, ma un sospiro di sollievo l'ha tirato. L'ha liberato, insomma. Senza dirlo. Credo che anche subito dopo la guerra, quando ha costruito il monumento a Cesare Battisti, qualche legame sentimentale, perché non era proprio un rozzo, sì, apparentemente brutale, duce, crea di muscolatura, però credo che una certa sensibilità l'avesse anche Mussolini nei confronti di Battisti. Sicuramente. Battisti poi non dimentichiamo che era un geografo e a qui lega giustamente a Mazzini, il quale Mazzini vedeva la giovane Italia, la giovane Europa, e Battisti mi sembra che i confini naturali che vedeva come Mazzini era Salorno e non voleva andare più di là, da quello che ho preso io da ragazzo subito dopo la generazione a scuola. Diciamo che Mazzini su questo aveva le idee un pochettino non proprio precisissime. Io ho discusso addirittura quando è venuto per Spadolini a Bezzecca per commemorare lì al monumento lì a Bezzecca, Spadolini, cioè, proprio scendendo, era più socialista Garibaldi o più mazziniano o repubblicano. Questi sono discorsi che lasciate. Poi c'è il rapporto di Battisti con Fabio Fizio, Damiano Chiesa. Giustamente devo ammirare che, visti da voi, dalla nuova generazione, avete centrato il problema. A me non è piaciuto che non era... Poi non dimentichiamo che ha studiato a Innsbruck e a parlamentare con De Gasperi. Quindi bisogna mettersi tutto in contesto di quelle robe. E anche tanto anticlericale che dicono, ma era un anticlericale sui generi per conto mio. Perché allora posso dire che era anticlericale anche Antonio Rosmini, che è morto 20 anni prima del 55, e quindi ha messo il suo libro Le Cinque Piaghe all'indice proprio perché ce l'aveva con l'impero austro-ungarico, che nominavano i vescovi, anzi i principi vescovi, si dicevano a Trento, i principi venivano nominati dall'imperatore. Quindi credo che abbia ereditato questo spirito anche Battisti e da questa filosofia. Rosmini, per esempio, era vigilato dai, lì quando è stato un anno parroco di San Marco a Rovereto, era vigilato dalle ostie, se l'è dovuto andare in quel Distresa, e sembra anche, avete sentito recentemente l'anno scorso, che ha avuto quel pranzo con i parenti Bocce e Perdigotti, di cui dopo è stato male, ho mangiato una minestra e lui ha confessato la cognata. Sono avvelenato, non ha accusato nessuno, però 15 giorni dopo è morto. Quindi anche Battisti si è trovato sul corno, è andato male, le spie austro-ungariche. Bene, grazie, vissuto, grazie anche di questa. Sono andate tutte le commemorazioni a Fossa lì al Castello del Consiglio da studente e anche quando ero a Padova. Sì, il nome c'è, però rimane, i sentimenti sono rimasti. Ho conosciuto anche i cugini Battisti delle Fonderie di Trento che mi hanno fuso la targa dei caduti della libertà che lì al monumento in Piazza Adriano. Non hanno voluto una lira tranne che la spesa del bronzo. Ho sentito il figlio di Battisti, la Livia Battisti, ho sentito parlare tutti quanti. Però è una figura che a me ha molto influito su di me, la figura di Cesare Battisti. A Padova mi si chiama... Essendo trentino di origine, per forza, in qualsiasi parte d'Italia lei si potesse trovare, chiaramente. Come dice? No, dico, siccome lei è trentino di origine, era naturale che in qualsiasi altro luogo d'Italia... Trentino è che così a Padova diceva, ma tu non sei un trentino poi in generis, quasi battistiano, mi dice. Con questo volevo esprimere che lodo il vostro lavoro. Grazie. Anche su Ernesta effettivamente aveva un po' si sente avvelenato con Mussolini, col fascismo, negli anni 37, so che sì, come si esprimeva, lo leggevo, allora avevo 12 anni, quindi so tutto queste giustamente più Ernesta che si è provata al partito, non è che filasse bene col regime fascista che io ho vissuto, anche pure avendo idea mio padre era socialista, mio nonno sono sposati a Firenze, ma era tutto un ambiente che bisogna... Io l'ho vissuto e posso dire che con una certa obiettività voi cercate di estrarre la visione storica che uno che l'ha vissuta ha un po' di confusione. Grazie per il riconoscimento del lavoro. Non l'ho ancora letto, sentito. Mi chiedo se è possibile, dagli studi che avete, gli approfondimenti che avete fatto, capire esattamente quale fosse il sentimento della popolazione trentina, non tanto nei confronti di Cesare Battisti, ma nei confronti dell'irredentismo in sé. Sa perché me lo chiedo anche? Perché io sono figlio di genitori ex deportati in Austria come trentini, al tempo della prima grande guerra. Dai loro ricordi emerge un risentimento ovvio per essere stati deportati dalla zona di Rovereto e dalla Val Sugana perché considerati pericolosi gli effetti di un'eventuale partecipazione alla guerra, ma non è mai emerso un sentimento vero di desiderio vivacissimo di passare la linea. Tutto questo poi è un po' confermato se io penso a una canzone della Sat, che è quella di quello che va in giro a vendere carabattole e che fra le cose che vende ha il ritratto del Garibaldi o del Regio Pugliaton, che vuol dire che vendeva contemporaneamente ai trentini sia il ritratto di Garibaldi per gli irredentisti che il Regio Pugliaton, che era l'aquila imperiale del emerge qualche cosa che fa pensare che ci sia stato un vero movimento, diciamo, di massa per l'irredentismo nei confronti dell'Italia. Questo è un argomento che io conosco soltanto in parte, nel senso che ci sono, credo, anche degli studi di Fabrizio Resera. E soprattutto del gruppo di materiali di lavoro di Rovereto. Nel senso che hanno cercato di... attraverso le scritture dei soldati, di Ari, la scrittura popolare soprattutto, no? L'accesso negli ultimi anni a numerose fonti di storia di scrittura popolare, scritto a memorie, diari, autobiografie, viene fuori un sentimento contrastato, nel senso che c'è una italianità di cultura, di lingua, ma sicuramente il cuore non batteva per l'Italia sabauda, questo è evidente, insomma, questo è evidentissimo. nella tradizione popolare trentina, italianissima per lingua, cultura, formazione, ma un conto è questo, un conto è l'assetto istituzionale, lo Stato, i poteri e il riferimento appunto a una lunga permanenza nell'impero romano-germanico, perché sono 7 secoli di permanenza all'interno, e quindi sono questo sicuramente. Diverso il discorso sui centri urbani, cioè le città, la piccola borghesia, a Rovereto, a Trento, il ceto, diciamo così, della piccola, piccolissima borghesia aspirava, diciamo così, all'italianità, all'unione all'Italia, contro i suoi stessi interessi economici, peraltro, perché come si è visto a Trieste, quando poi Trieste è entrata nel Regno Italico, Trento già subito nelle prime giornate dopo il 18, la canzoncina era Trento Redenta al 40%, perché il cambio la corona e la lira era stato sfavorevole, no? Non era 1-1 come doveva essere teoricamente. Trieste è il caso emblematico, un grande porto, passaggio all'Italia e il declino per la città di Trieste, no? Questo, cioè, contro gli stessi interessi economici, però vale un discorso, appunto, il sentimento nazionale, la lingua, la cultura, di fronte a una germanizzazione in atto che stava effettivamente manifestandosi in tutte le zone non tedesche dell'impero. Quindi teniamo conto che nella seconda metà dell'Ottocento e nel primo Novecento la situazione cambia, nel senso che c'è una forte spinta pangermanista che viene dal nord, alla quale si contrappone sempre più fortemente uno spirito di unione all'Italia, no? Poi l'Italia è conosciuta sotto la specie dei Savoia, cioè Re Sciaboletta non era l'imperatore, nel senso che insomma i Savoia hanno avuto dei grandi generali nella storia, c'è il mito della grande casa Savoia, ma un conto di Savoia è un conto di Asburgo, cioè non è che possiamo mettere sullo stesso piano. Non ne farei una questione di fondo, nel senso, cioè, ne farei una questione di fondo perché siamo in una zona particolare. Però insomma l'Italia è la terra delle piccole patrie, come dice Stefano Cavazza, no? Insomma, ci sono tante altre micro realtà, non soltanto quella trentina, in cui, diciamo, il senso di appartenenza nazionale è un senso molto molto molto labile. Pensiamo al meridione italiano, per esempio, pensiamo alla Sicilia, dove c'era un movimento, c'è sempre stato un movimento, diciamo, di indipendentismo locale molto forte. Va bene anche per me. Assolutamente. Io volevo chiedere se nelle vostre ricerche è emerso, a proposito di quello che diceva il signore, che c'è una differenza, per così dire, tra la borghesia e la popolazione, cioè la povera gente, la popolazione più semplice, a proposito di irredentismo, cioè mi è sembrato di capire, dico anche perché, che più la parte ricca, per così dire, la popolazione fosse a favore dell'Italia, mentre il popolino, la gente semplice, che faceva i discorsi nelle cantine, era più legata all'Austria. Dico per questo perché mio papà, che è nato nel 1909, anche di origine trentina, andava a scuola a Grumes, che è nella Val di Cembra, e quando aveva nel 18, cioè, c'è stata la missione, è arrivata la maestra in classe a scuola, che lui frequentava la scuola elementare, e ha detto: bambini, l'inno nazionale è cambiato, non è più servi Dio, l'austriaco regno, servi il nostro imperatore, è cambiato. E la maestra piangeva, cioè non c'era gioia assolutamente, c'era tristezza. E volevo sapere se anche voi dalle ricerche di Paolo Antolini, cioè, rispetto, bisogna distinguere fra quella che era l'alta aristocrazia, era filosburgica, perché l'alta aristocrazia, i veri ricchi sapevano da che parte stare, no? Come sempre, no? Un conto era l'altra, non so, i boss pedrigotti, pure le grandi famiglie nobili, che erano tranne pochissime, come i Manci, erano di fedeltà asburgica, ma era una minoranza assoluta rispetto alla fedeltà asburgica. Poi, quando entriamo a parlare di piccola borghesia, di ceti emergenti, l'Italia giolittiana è pur sempre l'Italia della modernizzazione, insomma, l'impero asburgico è un impero di centro Europa in cui, insomma, la conservazione prevale, a parte Vienna, ma in tutto il contesto. E se poi si va giù verso il popolino aveva sentimenti, i parroci di campagna, vicini al popolo, avevano sentimenti italiani e di italianità. Battisti spesso richiama l'importante ruolo svolto dai piccoli parroci dei paesi nel mantenere vivo la cultura, la lingua, la tradizione, no? Dal punto di vista economico, naturalmente, quando poi arriva l'Italia, il mondo contadino vive questa unione d'Italia, cioè cosa facevano i contadini trentini? Cioè, c'era appunto i vini dove andavano, le derrate alimentari dove le smerciavano, al nord, no? Nel momento in cui si danno la concorrenza con l'Emilia, con la Lombardia, con il Veneto, si impoveriscono, nel senso che c'è una questione economica che viene però dopo a emergere come forte sentimento di anti-italianità a livello popolare, perché è cambiato anche il contesto economico, no? Questo bisogna sempre tenere conto un po', ma comunque Paola su questo sta facendo anche lei una ricerca sul ceto, cioè, diciamo quelli sul ceti trentini dal punto di vista... Sì, comunque l'impressione, ma a dire la verità la ricerca va fatta meglio, penso, cioè l'irredentismo come realtà vive operante non è conosciuto, bisognerebbe censire, non so, la Lega Nazionale, dove si trova, io so che a Fione, io vengo da Fione, e nella zona, ma perché me lo dicono anche altri ricercatori, non perché l'ho fatto io, il socialismo non attecchisce molto, però il liberalismo, quindi insomma, ha, ma poi bisogna vedere dove, chi, come, quando e perché, ma ha un certo radicamento, ecco, ma è una zona, da un'altra parte magari era più il Volkswagen. Adesso dico, naturalmente, è una realtà tutta da esplorare. E poi, secondo me, la guerra però, voglio dire, dopo il test del dopoguerra è sì indicativo, però cambia tante cose, perché dipende molto anche, e ce lo dicono le scritture popolari, da dove finisci durante la guerra. Magari parti che sei filo austriaco, torni che sei filo italiano. Perché? Perché le circostanze ti hanno portato ad odiare magari i tuoi vicini, perché la guerra poi crea, come diceva anche Massimo, crea nemici, crea contrapposizioni, eccetera, eccetera. Oppure, viceversa, parti, sei profugo in Italia e torni che odi ancora di più l'Italia, però non lo puoi dire, non lo puoi più dire. È certo che l'elemento probabilmente dominante è quello della piccola patria, cioè del senso di appartenenza regionale, e soprattutto nelle classi più basse credo che sia assolutamente dominante questo sì, senso di appartenenza alla regione trentina, più che alle grandi istituzioni statuali che potevano essere l'impero asburgico o il nuovo regno d'Italia. Le piccole patrie, questo è un tema forte. È certo che poi l'irredentismo è un movimento soprattutto, cioè, esige un approccio culturale di un certo tipo, quindi non è non ci si avvicina facilmente, ed è chiaro che tra le classi popolari probabilmente avvicinarsi all'irredentismo era più difficile, anche proprio per una difficoltà di avvicinamento intellettuale al movimento. Prego, una curiosità. I giornali dell'epoca, quando appunto ci fu l'esecuzione di Battisti, i giornali erano tutti, diciamo, governativi, controllanti, c'erano anche delle voci indipendenti, era consentito a questo gruppo italiano di manifestare i propri sentimenti, oppure tutto è stato messo... Massimo Tiezzi, una parte della sua ricerca nel libro proprio si occupa specificamente di questi aspetti nella sua ricerca. In realtà l'opinione pubblica era manipolata dall'impero, quindi non c'era possibilità di manifestare dissenso. Il risveglio trentino era diventato risveglio austriaco, perciò non c'era assolutamente possibilità di che voci dissenzienti si alzassero contro l'esecuzione di Battisti. Che diventa In Italia invece chiaramente c'è una contrapposizione, una guerra nella guerra tra l'opinione pubblica austriaca e l'opinione pubblica italiana. Da una parte il sacrificio, il martirio, quindi l'eroe italiano che si sacrifica in nome dell'alto ideale di patria, dall'altra parte invece il traditore che diventa simbolo di tutto ciò che non bisognava essere per essere buoni cittadini dell'impero. Poi all'interno dell'Italia c'è anche la componente socialista che era contro la guerra, che anche dopo, diciamo, la morte di Battisti c'è chi anche in Italia parteggia per l'Austria, no? Nel senso che ci sono queste, poi vengono naturalmente subito duramente redarguiti con i metodi di allora, no? Comprese carcerazioni, perché era un sentimento anti, contro la guerra che si manifestava anche in Italia, per cui ci sono appunto... Sì, lì da un punto di vista diverso, nel senso che i socialisti italiani restano fedeli al principio internazionalista e quindi la loro ostilità aperta contro, contro la guerra, e perciò fedeli a questo dogma, diciamo, anti-imperialista e antibellico, attaccano e rifiutano qualsiasi tipo di sacrificio, cioè non, non accettano di partecipare alla glorificazione del martire Battisti, perlomeno in parte, cioè non, non totalmente. Cosa mi interessa? C'è qualche traccia di connessioni o contatti di qualche tipo tra il dilettantismo e i movimenti anarchici? Perché glielo chiedo? Perché so che circolava nei campi profughi una canzone irredentista molto forte contro proprio l'Austria, insomma, in particolare. Morte a Franzi di Oberdan, insomma, era tutto un programma. Io non ne ho assolutamente idea. All'inizio del movimento socialista, come in tutte le altre realtà, che nel Trentino c'era una vicinanza di fatto fra gli anarchici e i socialisti, c'era una vicinanza, un sentimento di lotte comuni, nella genesi, no, proprio alle origini del socialismo trentino, c'è una forte vicinanza fra anarchici e socialisti, come c'è peraltro in tutto il movimento internazionale. All'inizio, poi dopo questo è stato un marcio tra il credentismo, sì. Ci vorrebbe lui qua, che lui è esperto di socialismo. Bene, allora io non resta che ringraziare la biblioteca per ma continuiamo a chiacchierare, per lasciare andare a casa la gente che ora dice. Solo per dire che a Bezzecca, che c'è anche la medaglia d'oro di Federico Guella, è di un medico. Tutto i famigli e i benestanti erano italiani, Popolino era altri affari. Grazie a tutti. Grazie per essere intervenuti, se volete gli inviti per le prossime iniziative.